Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 25 maggio 2015. Ad Expo 2015 protagonista la Serra Spaziale nata ad Aprilia. Il progetto si chiama Agrospazio, è partito nel 2004 e nel 2011 ha visto la nascita della prima piantina in orbita. 4 anni dopo, sulla Stazione Spaziale Internazionale, si sta realizzando il primo orto spaziale ad impatto zero e riciclo di acqua, lo stesso che si può ammirare sotto i padiglioni di Expo 2015. La serra spaziale gonfiabile è stata ideata e messa a punto da AeroSucur, azienda di Aprilia, con il sostegno di Feder Lazio Latina, come pure dell'Università dell'Arizona e del CEAC, Controlled Environment Agriculture Center, e delle agenzie spaziali europea ESA e italiana ASI. La versione di prova ha già messo in evidenza le sue potenzialità e chi ha assaggiato zucchine e pomodori del primo raccolto idroponico spaziale si è detto soddisfatto. Fin qui la notizia del 25 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radice nel presente, in questo 2012. A Sperlonga, in provincia di Latina, è in corso da ieri il 5° workshop internazionale Agrospazio 2012, che sta facendo il punto sul progetto. Saverio Motolese è direttore di Feder Lazio Latina. È un progetto che ha questo obiettivo ambizioso, cioè realizzare un sistema di supporto alla permanenza umana nello spazio attraverso la produzione di cibo in serre gonfiabili. Nel 2004, quando partì questo progetto, noi avevamo l'obiettivo di produrre prodotti agricoli su Marte attraverso queste serre gonfiabili che sono state progettate da questa azienda, dall'AeroSucur. Serre gonfiabili dentro le quali viene messo a punto un ambiente in uno spazio confinato con tutta una serie di situazioni legate anche al risparmio energetico e degli elementi che servono per la produzione del cibo e quindi dei prodotti agricoli. E nel 2011 abbiamo potuto vedere la piccola serra realizzata da AeroSucur a bordo della stazione spaziale e l'astronauta italiano Paolo Nespoli ha coltivato questa microserra e ha fatto crescere sullo spazio le prime piantine sperimentali. Per quanto riguarda il 2015, noi ci siamo posti l'obiettivo di ricostruire un ambiente confinato, addirittura con una cultura che è idroponica, quindi che sfrutta l'acqua senza sprechi. Noi dimostreremo all'interno di una serra gonfiabile come questo progetto sia già pronto di fatto. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.